America 24 di Mario Platero. Buongiorno da New York, Mario Platero, benvenuti ad America 24, una settimana che si apre sotto il segno, direi, dell'ottimismo, sotto il segno positivo. La settimana scorsa abbiamo avuto un aumento dell'indice Dow Jones non male, soprattutto venerdì, addirittura dell'1,2%. Partiamo da quota 10.566, siamo quasi a 10.600 punti e dunque questa settimana potrebbe essere la settimana chiave per vedere se si riuscirà a portarsi a ridosso di quota 11.000, che resta un po' la soglia psicologica inaccessibile, quella alla quale quando ci si avvicina poi immediatamente subentra una ritirata. Le ragioni sono semplici: un tasso di disoccupazione non bellissimo, ma sicuramente meglio delle aspettative. I lavoratori che hanno perso il posto di lavoro sono stati 36.000 in febbraio, un numero che sembrava dovesse essere molto più alto. Il tasso è rimasto attorno al 9,7%. Il consenso è che forse la ripresa economica si sta consolidando, siamo in quel plateau dal quale il rimbalzo può essere soltanto in avanti. E in più ci sono state altre notizie, la General Motors ad esempio, che ha riaperto 660 concessionari che dovevano essere eliminati, invece li ha reintrodotti. Sono partiti i preordini per il nuovo iPad di Apple Computer, e però ha chiuso un'altra banca, la 23ª banca che chiude quest'anno, la Sun American in Florida, una banca piccola, ma diciamo il consolidamento del settore bancario continua. Notizia importante per domani è la visita di Papandreou. Il primo ministro greco, dopo il suo giro delle capitali europee, arriva a Washington per vedere Barack Obama alla Casa Bianca. Cercherà di battere cassa a Washington e visiterà il Fondo Monetario Internazionale, che potrebbe dare ulteriori garanzie per consolidare la situazione finanziaria della Grecia. Infine, il presidente Obama darà dettagli su un summit sull'imprenditoria che si terrà tra il 26 e il 27 aprile a Washington. 40 paesi invitati da 5 continenti, paesi soprattutto emergenti. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone, for the times they are a-changing. Times are a-changing, si va avanti, un simbolo dei baby boomers, Bob Dylan, archiviata la notte degli Oscar, America 24 si porta in avanti e vi parla ora di un programma televisivo nuovo che sta ipnotizzando gli Stati Uniti, è quello dedicato ai baby boomers, alla loro storia, al loro destino, da Tom Brokaw, che appunto fa un programma che si chiama The Boomers. Brokaw è stato l'anchorman della NBC, ha scritto un libro sulla generazione della Seconda Guerra Mondiale che è stato un successo clamoroso, adesso si occupa invece appunto dei baby boomers, di quello straordinario fenomeno demografico che si è sviluppato tra la fine degli anni 50 e la metà degli anni 60. They were growing up in a period of time in which youth was being celebrated everywhere they looked. Sono cresciuti in un'epoca speciale, sapevano di essere speciali, grandi cambiamenti, grandi sogni, grandi aspirazioni, e questo il tema del programma televisivo su 76 milioni di americani che sono nati in questo periodo considerato dei baby boomer dopo la Seconda Guerra Mondiale, e cioè tra il 46 e l'inizio degli anni 50 e il 1964. My four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. I have a dream. I baby boomers hanno reso possibile la grande battaglia per i diritti civili e hanno vinto, hanno cambiato il volto dell'America e portato un messaggio nel mondo. I baby boomers sono quelli che hanno conquistato la luna, i sogni dei baby boomers risalgono a quel periodo in cui tutto sembrava possibile, in cui il benessere era un benessere vero, l'America cresceva e anche molti nuovi servizi sociali venivano varati dal governo, in particolare dall'amministrazione Johnson. The boomers, for good or for bad, are the economic motor that has driven Tom Hanks interviene nel programma, nel bene e nel male, dice: i baby boomers sono stati il motore dell'economia americana e di quella mondiale per un periodo di 20 anni. Decidevamo quali macchine comprare, che cibo mangiare, che vestiti indossare, stabilivamo dei trend, abbiamo avuto il potere in mano. Vero, programma sicuramente affascinante questo sui baby boomers, però dobbiamo chiederci che cosa fanno oggi i baby boomers. Ebbene, oggi i baby boomers, diciamo al di sopra dei 55 anni, dei 58 anni, cercano lavoro. Proprio questa mattina abbiamo avuto i dati di uno studio della Small Business Administration che ci racconta che cosa stanno facendo i baby boomers e di nuovo una storia di successo, una storia di grande cambiamento. Intanto più di 5 milioni di americani che oggi hanno 55 anni o comunque sono al di sopra dei 55 anni hanno il loro business, hanno la loro azienda, piccola o grande che siano, o comunque sono indipendenti, impiegati in modo autonomo. E questo numero di persone che si mantiene autonomo fra i 55 e i 64 anni sta continuando ad aumentare. Dal 2000 al 2007 è aumentato del 52%. Dunque, autonomia e imprenditorialità. Che cosa fanno i baby boomer? Ma un po' di tutto, dal bread and breakfast ai consulenti, danno lezioni private, si occupano di volontariato. Uno studio recente di Babson College, del Baruch College, ci ha riferito che il 18,9, diciamo il 19% di tutte le nuove aziende create nel 2008 è stato creato da americani al di sopra dei 55 anni. Nel 2001 era soltanto il 10%, quindi una nuova esplosione di questi baby boomers. Ne parliamo con Gianfranco Pasquino, chiedendogli soprattutto di farci un parallelo tra quello che sono i baby boomers, imprenditori americani e gli italiani. E purtroppo il parallelo qui viene poco, perché per molte ragioni l'America rimane comunque una società che è competitiva e che offre opportunità, mentre, come si dice, la vecchia Europa ha diversi problemi di adattamento. In più la vecchia Europa ha quello che potremmo da un lato considerare un vantaggio e dall'altro uno svantaggio, e c'è un sistema di welfare, quindi i vari ammortizzatori di vario genere, che non sollecitano più di tanto la fantasia imprenditoriale di coloro che perdono il posto. Intendiamoci, rimane sempre un problema grosso perdere il posto, però in molte zone dell'Europa il sistema di welfare sostiene e quindi non è in grado di essere così flessibile anche da incoraggiare il reinserimento. E dunque, se dovessimo dare un messaggio ai nostri baby boomers, cosa gli diremmo? Lei che consiglio darebbe? Da un lato il mettersi in proprio sicuramente, dall'altro probabilmente cercare di combinare le energie con amici, conoscenti che si trovano in situazioni non dissimili. Cioè, in questi casi forse il messaggio più giusto è cercate di fare sinergia, perché è possibile compiere, come dire, un passo avanti anche riorganizzandosi attraverso le conoscenze e le competenze alle quali si può attingere. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il nuovo sito che vi porterà sulla sponda americana. Ed eccoci dunque alla canzone del giorno. La celebriamo in onore di Woodstock, facendovi ascoltare proprio Woodstock di Crosby, Stills, Nash & Young, tratta dal primo album che hanno fatto insieme, Déjà Vu, del 1970. Well, I came upon a child of God. He was walking along the road, and I asked him, "Tell me, where are you going?" He told me, "Said I'm going down to Lester's Farm, gonna join in a rock and roll band. Got to get back to the land," said my. We are stars of gold. We are beautiful and carded. And we've got to get ourselves back to the garden. New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.